al posto di piatti di pasta e sformati al forno. È strano, si vede che l'estate sta, eh? Vabbè, intanto che noi aspettiamo le vostre foto. Meno male che c'è Piero che ci ha mandato delle melanzane fritte. Melanzane fritte, una cosa semplice. Starà facendo la parmigiana, chi lo sa che farà, con qualche piatto, la norma che si fa con le... Vabbè, comunque, allora, foto a parte, sì, noi ne parliamo di cibo. È certo che ne parliamo, che stiamo scherzando che non parliamo di cibo, appunto, ma vogliamo parlare, dato che parliamo di energia del sole, sì, vogliamo parlare di cibo solare. Perché no, non ci crederete, ma esiste un cibo che potrebbe salvare il pianeta, fatto di sole, acqua e anidride carbonica. Per produrlo non servono tempi agricoli né grandi quantità di acqua o particolari materie organiche, perché i cibi solari hanno un nome e si chiamano Solein, e un'azienda produttrice è la finlandese Solar Foods. Sì, non sono ancora sul mercato, ma dal 2021, diciamo, potrebbero essere commercializzati. Quindi possiamo fare pubblicità, visto che non sono sul mercato. Esatto. E potrebbe essere un'alternativa proteica a quelle oggi disponibili, diciamo, anche perché sono 100% cruelty free e sostenibile. Che sarebbe cruelty free sarebbe che non c'è crudeltà, perché non uccidi nessun animale, capito? Fantastico. Perché è un cibo fatto dall'aria, ecco, capito? Perlomeno quella la possiamo usare, no? Perché adesso quando uno va a fare la spesa è una tragedia. Le piante piangono, gli animali pure, il pesce non ne parliamo. La frutta questa la cogli dall'albero. Ma sei pazza, quella caccia un urlo. Solo quando cade, per terra dopo due o tre giorni. Poi, se non se la sono mangiati gli altri, perché intorno a noi ci sono uccelli, formiche, insetti, vabbè, comunque. Allora, vediamo un po' come è fatto questo cibo solare. Come è fatto? È una proteina, è un cibo, no? Sì, è una proteina, è costituita da batteri del terreno ed è alimentata con idrogeno estratto dall'acqua per elettrolisi. Quindi, secondo i ricercatori, se l'elettricità utilizzata in questo processo proviene da fonti solari o eoliche, il cibo potrebbe essere prodotto quasi con emissioni di gas a effetto serra zero. Ecco. E secondo la startup, il processo potrebbe avere una produzione di 0,4 kg di anidride carbonica per chilogrammo, rispetto, sentite bene questa cosa, ai 45 kg che si usa per la carne bovina e ai 2 kg per le piante più performanti. Quindi effetto serra